la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qua in diretta dagli studi di Milano, vi saluta alle 16.30, primi 33 secondi Oscar Giannino, e come sempre vi ricordo versione di Oscar @radio24.it l'indirizzo per fare trasmissioni belle come quella di ieri, in cui direttamente degli ascoltatori ci hanno raccontato alcune delle loro traversie, grazie a uno di questi ascoltatori, non grazie all'informazione, qui facciamo autocritica noi giornalisti, abbiamo scoperto di questa incredibile sentenza ieri della terza sezione del TAR del Lazio, una sentenza nella quale si mette per iscritto che lo Stato non paga gli interessi di mora a chi è illegittimamente danneggiato dallo Stato e non li paga perché l'amministrazione pubblica versa in condizioni economiche precarie, come è noto ha fatto grandi tagli di spesa, la spesa ha continuato a crescere alimentata dalle tasse che hanno continuato a crescere, ma per la prima volta abbiamo scoperto una sentenza nella quale lo Stato si dà ragione da solo e vi fa il gesto dell'ombrello e vi mette per iscritto in una sentenza che voi cittadini non avete diritto agli interessi di mora pagati dallo Stato se lo Stato ha torto. Naturalmente voi gli interessi di mora li dovete pagare comunque sempre allo Stato quando non ottemperate a un vostro dovere, però non vale il reciproco e lo abbiamo scoperto ieri grazie a uno dei nostri ascoltatori. Io mi auguro che qualcuno commenterà sui giornali, io stesso lo farò domani, ma spero che questa sentenza venga a sollecitare la, secondo me, giusta riprovazione di persone più autorevoli di noi, ma comunque l'abbiamo tirata fuori grazie a voi. Allora, oggi vi dico subito il tema per consentire di telefonare all'800240024, di mandare le opinioni al 3492386666 con gli sms di cui do lettura. Oggi è la giornata, se avete un rapporto coniugale che pensate di sciogliere, cioè se avete problemi in famiglia e volete divorziare, questa è un po' la giornata giusta per telefonare e dirci che cosa pensate di questo, dopo decenni, novità legislativa che oggi la Camera, proprio oggi, dovrebbe finalmente varare, perché siamo al varo della nuova disciplina del divorzio, dopo la legge che la introdusse a seguito del referendum nel 1970, quindi da allora in realtà non ci sono stati cambiamenti di fondo. Sapete che al divorzio ci si arriva dopo un lungo processo di separazione, e la legge introduce oggi una significativissima differenziazione rispetto alla separazione e poi al divorzio che avevamo alle spalle, e che innumerevoli volte, quando si è trattato di discuterne per verificarne la modificabilità, ha riproposto nei decenni consueti schieramenti contrapposti di chi diceva no, non bisogna assolutamente diminuire il termine temporale della separazione rispetto al divorzio, perché sennò è un attacco alla famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. E invece si è arrivati a questo testo di larghissima convergenza che dovrebbe essere finalmente varato. Non ho detto che dovete chiamarci solo se volete divorziare o meno, perché ovviamente a qualunque cittadino ha le sue opinioni in materia, ma insomma l'argomento è questo. Vediamo in che cosa, per sommi capi, si differenzia la nuova disciplina che viene varata oggi, e poi abbiamo un ospite molto più titolato di me che ci spiega come questa disciplina sia un passo avanti per certi versi, però naturalmente presenti anche poi dei problemi irrisolti, come vedremo da questo punto di vista. Allora, in che cosa è diversa la disciplina rispetto al passato? Ecco, il testo che la Camera varà oggi riduce molto i tempi minimi di separazione per poter presentare la domanda di divorzio, perché in caso di separazione consensuale si prevedono solo 6 mesi. Ecco, 6 mesi. Dopodiché, in caso invece di separazione giudiziale, in cui non c'è la consensuale, non si è d'accordo, si va di fronte al giudice per la ratifica, dopo averli stabiliti i termini della separazione, dell'assegno, il mantenimento, la prole e così via, allora invece il tempo della separazione non è di 6 mesi come per la consensuale, ma è di 1 anno. ecco, di un anno di fronte alla comparsa davanti al giudice. Questa è, per così dire, la novità di fondo. Poi adesso con il nostro ospite, che vi presento immediatamente, vediamo anche che cosa questo significa per chi è in comunione, in separazione di beni, se e come cambia questa nuova disciplina in presenza di figli o senza figli e così via. Ma la novità di fondo è assolutamente questa, e io devo dirvi che questa è una norma che ci avvicina alla Europa, perché in media nella legislazione europea effettivamente anche qui i termini sono di 6, 7, 8 mesi, tranne nei paesi in cui invece esiste una fortissima preclusione ancora all'istituto, come l'Irlanda del Nord, Malta e la Polonia. Però ci sono anche dei paesi che sono andati oltre, perché in Francia, per esempio, in caso di divorzio consensuale non c'è alcun periodo di separazione previsto, neanche i 6 mesi che la riforma che si vota oggi in Italia introducono. In Francia si va direttamente di fronte alla consensuale al divorzio, e anche nel Regno Unito a meno di conflittualità irreversibili si può immediatamente attraverso il giudice, la pronuncia del giudice, andare direttamente al divorzio. Quindi ci sono anche paesi in cui non ci sono 6 mesi per la consensuale, come da oggi sarà previsto in Italia quando la legge naturalmente viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, o 12 mesi per la separazione giudiziale, ma si va direttamente al divorzio. Allora, questi i caratteri generali della riforma. Per approfondire e capire come e se davvero questi tempi verranno rispettati, che cosa cambia rispetto al regime dei beni e della prole, è con noi il presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, l'avvocato Gianetto Regassani. Buon pomeriggio e grazie, avvocato. Buon pomeriggio a voi. Allora, diamo per scontato che anche voi siate favorevoli, ma questa norma al contempo, vediamo innanzitutto di spiegare per chi è in regime di separazione o comunione dei beni, e poi relativamente alla prole in famiglia, se cambia qualche cosa o che cosa cambia questo diverso regime dei beni. Poi invece arriviamo alla domanda concreta di quali sono i punti che lascia aperta anche questa riforma. Cominciamo dal regime patrimoniale dei beni e da quello della prole. Che cosa cambia? Ma sullo scioglimento della comunione cambia molto, perché già alla prima udienza, quando il giudice autorizza le parti a vivere separate, c'è lo scioglimento della comunione, quindi immediatamente l'aspetto patrimoniale viene risolto, anche se nel 70% dei casi gli italiani optano per il regime di separazione dei beni, perché c'è una sorta di sfiducia di fondo già quando ci si sposa, figuriamoci dopo, quando si sceglie appunto questo regime. Si pensava anni fa, quando fu resa quasi automatica la comunione legale dei beni, che questo potesse essere un passo avanti. Poi gli italiani sono ritornati all'antico, quindi separazione dei beni, ognuno ha i beni propri, quindi soltanto il 30% delle coppie avrebbe questo problema, che comunque viene risolto immediatamente con questa riforma. Ok, invece per la prole? Non c'è nessuna differenza tra oggi e fra mezz'ora, perché penso che fra mezz'ora ci sarà questa rivoluzione copernicana del diritto di famiglia, nulla cambia rispetto agli assetti economici e di affidamento o dei diritti successori per i figli. Ora, mentre mi pare di capire, si va de plano sul fatto che per la consensuale ci saranno 6 mesi, che cosa capiterà invece e davvero per i casi in cui invece c'è la separazione giudiziale? Chi davvero è in grado di garantire che di fronte al giudice, di fronte alla prima comparsa, non la richiesta, ma di fronte alla prima comparsa di fronte al giudice, poi tutto debba essere davvero risolto in 12 mesi, stanti i problemi e i tempi significativamente più gravi e più lunghi della giustizia italiana? Confermo, Alessandro, che siamo tutti assolutamente soddisfatti di questa legge. Dobbiamo anche rilevare che fondamentalmente il legislatore ha dimenticato che siamo in Italia, forse pensava che siamo in Svezia o in Svizzera. Un processo di separazione giudiziale dura mediamente 36 mesi. Ora, la legge non va a toccare un principio fondamentale, che per poter chiedere il divorzio ci deve essere una definizione con provvedimento giurisdizionale della separazione. Ergo, credo che non ci sarà nessun tribunale in Italia che riuscirà a definire un processo così violento, così complicato, nell'arco di 12 mesi. Addirittura in alcuni tribunali italiani ci vogliono 6-7 mesi per vedere per la prima volta un giudice. Quindi credo che... Che significa che a quel punto si va verso i 4 anni come durata media poi del procedimento? Io credo che sarà un incentivo per tutti a consensualizzare le procedure, a fare presto, perché se si arriva alla deriva della giudiziale, del contenzioso, della terza guerra mondiale, non c'è legge del divorzio breve che tenga, i tempi saranno lunghissimi, per cui fondamentalmente non è che noi possiamo maledire questa legge per questo motivo, ma dobbiamo anche informare bene le persone. Attenzione, se volete fare la guerra e una separazione può avere anche uno sbocco in appello e in Cassazione, il fatto il vantaggio dei 12 mesi è assolutamente travolto dai tempi biblici della nostra giustizia. Oh, qui però c'ho una domanda, io personalmente. Immagino, naturalmente io non ho esperienza di separazione e divorzio, ma io immagino che quando si incardina un procedimento di separazione giudiziale non consensuale sia perché in presenza di forti dissidi o sull'aspetto reddito patrimonio o rispetto alla prole, vi sia uno dei due coniugi che si ritiene debole nei confronti dell'altro, che giudica per il suo comportamento concreto o per la mancata risposta a delle richieste che il coniuge debole considera legittime, che si considera appunto debole in questo rapporto. Allora, se questa è una delle caratteristiche di fondo di chi sceglie la separazione giudiziale, perché dice solo un giudice può valutare e imporre alla parte tra virgolette più forte, meno sensibile, delle condizioni che da soli non riusciamo insieme a definire e a condividere, il paradosso è, a suo giudizio, che questa riforma è vero che aiuta molto chi con la consensuale si vede i tempi significativamente abbreviati per lo scioglimento del rapporto, ma però laddove esiste uno squilibrio forte che si è determinato tra i coniugi, non solo fa rimanere tutto come prima, ma siccome cambia il regime agli altri, mette in condizioni di avere un doppio danno chi si considera il coniuge debole, tanto debole da avere la legittima aspettativa che solo un giudice possa tutelarlo, perché a quel punto si ritrova nella doppia condizione di dover avere i tempi più lunghi, come sempre avveniva di fronte a una separazione giudiziale, ma anche significativamente più lunghi, perché nel frattempo per chi si mette d'accordo, e cioè ha un rapporto paritario anche nello scioglimento del rapporto matrimoniale, ce l'ha molto più breve. Non si poteva immaginare, avvocato, un qualche cosa che potenziasse il diritto dei coniugi più deboli e che quindi in quel caso hanno di fronte la necessità inderogabile di sperare qualche cosa dalla pronunzia del giudice? Cioè, non si poteva intervenire anche nel tempo, pur sapendo le difficoltà della giustizia italiana, per evitare che si creasse questo squilibrio aggiuntivo a svantaggio dei coniugi deboli? In effetti ci abbiamo pensato tante volte, ne abbiamo parlato spesso nei convegni, nei congressi forensi, di questa terza via. Purtroppo no, il legislatore non è intervenuto su questo, per cui quando bisogna tutelare i diritti sacrosanti, ben venga anche la giudiziale. Attenzione, non vogliamo essere i talebani della consensuale a tutti i costi, perché poi bisogna rinunciare a dei diritti fondamentali. Per cui la giudiziale è un'arte, bisogna saperla fare, ma dobbiamo anche imporre agli addetti ai lavori una specializzazione, perché secondo me nell'agenda politica sicuramente ci sarà in futuro il varo del Tribunale per la Famiglia con magistrati super specializzati, veloci nelle decisioni, perché la specializzazione velocizza tutto. Questo potrebbe essere una garanzia, perché non possiamo pensare di andare avanti sempre con riforme a costo zero, cambiando qualche comma, qualche virgola. Bisogna investire moltissimo sul settore famiglia, sia nella sua fase fisiologica quando va tutto bene, ma anche purtroppo quando la famiglia si ammala. Bisogna investire moltissimo, altrimenti non c'è riforma che tenga, perché se hai un magistrato bravissimo nel diritto delle locazioni e lo sbatti in una separazione giudiziale gravissima, quel magistrato sarà inevitabilmente lento anche se bravo in altre materie. Bisogna riflettere su un investimento umano, delle risorse umane, di una ottima magistratura italiana, ma che è purtroppo una magistratura generalista e quindi fuori dal tempo e fuori dall'Europa, così come l'avvocatura. Oh, allora, questa è una risposta che a me piace, perché anch'io credo che la specializzazione delle corti sia la via da seguire. Questo non riguarda solo le sezioni specializzate per le imprese, dove naturalmente il problema c'è, come, e da anni siamo in un percorso iniziato ma dagli esiti insoddisfacenti. No, riguarda anche altre materie del diritto, perché io credo che sia assolutamente fondamentale questa scelta. È una scelta che non piace troppo alla magistratura, che da una parte teme che con la specializzazione si perdano delle connotazioni universalistiche del magistrato. Io non credo che sia una buona obiezione. Il problema è che bisogna spendere dei soldi, dei denari in questo. Questo sì, però la mia preoccupazione è che i coniugi deboli da oggi, con questa riforma positivissima, diventano per certi versi più scoraggiati ancora. E quindi quello che temo è che alla fine la pressione per la consensuale abbia i tempi più brevi. Che cosa porterà? Porterà delle soluzioni nelle quali il coniuge più forte prevarrà, perché oggi c'è un incentivo vero alla consensuale, che è positivo per evitare gli inutili litigi, ma quando ci sono posizioni squilibrate tra i due e quindi situazioni da tutelare davvero, e penso ai figli più che ai soldi, ma anche i soldi contano nei litigi, ma ecco, in quel caso quello che temo io è che noi avremo meno giustizia, ecco, e lo dico da fortemente a favore della diminuzione dei tempi. Io sarei per la soluzione per cui quando c'è il pieno consenso si può divorziare senza aspettare neanche i 6 mesi. Speriamo di avervi spiegato bene in che cosa consiste i termini generali di questa riforma. Adesso abbiamo i 60 secondi di strati, dopo ci sono le vostre telefonate e leggo un po' di sms e poi ci facciamo dare la risposta dall'avvocato Gassani. A tra poco. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:47 primi e 46 secondi. Stiamo parlando del varo atteso per oggi, quello definitivo della nuova disciplina del divorzio. Il divorzio in 6 mesi per la consensuale, in 12 mesi dalla comparizione del giudice per la giudiziale. Da oggi è atteso proprio adesso il sì definitivo della Camera. Innanzitutto leggo un messaggio da parte di Giovanni, che poi giro per la risposta dell'avvocato Gassani dopo che avremo sentito anche 2 telefonate. Cosa ci dice Giovanni? Dice: io sono separato consensualmente dal 2004 senza figli, tutto in regola con la vecchia legge. Con le nuove regole io avrei potuto chiedere il divorzio davanti al mio sindaco, ma siccome questo porta via lavoro agli avvocati, ci scrive Giovanni, ecco che lo scorso gennaio viene inserita la norma che siccome io ho figli con la seconda compagna dovrò andare comunque davanti al giudice, ma la vecchia moglie nulla a che vedere con i miei figli attuali. Dunque attenzione, perché nelle modifiche positive della nuova legge ci sono comunque tutele anche nei confronti degli interessi in campo più che della necessità di risparmio per i cittadini. Questa è l'opinione di Giovanni, sentiremo poi la risposta dell'avvocato Gassani. Intanto sentiamo anche Alessio da Milano, prego Alessio. Buon pomeriggio. Senta, io chiaramente è un miglioramento in questo senso dei tempi, è sicuramente una cosa positiva. In realtà però poi tanto si rimane sposati comunque per tutta la vita, perché le faccio il mio caso: io sono separato dal 2001, la mia signora, ex signora, ha sempre guadagnato molto bene come me, se non anche più di me in alcuni periodi. Adesso lei dopo 15 anni ha perso il lavoro e viene a chiedere soldi. Allora forse sarebbe il caso di superare questo tipo di cose, perché giustamente se il caso del sessantenne che si trova che dopo che c'ha una moglie gli ha tirato su 3 figli e a 60 anni scarica la poveretta che non ha mai più lavorato perché la famiglia ha deciso che non lavorasse, e questa dove va a produrre lavoro, dove va a produrre reddito? Ma ad esempio una coppia di 30 anni che si separa, insomma la parte virgolette più debole di 30 anni, sia l'uomo sia la donna, a un certo punto si rimbocca le maniche e se ne va a lavorare. Certo, magari per i primi 2 anni. Quindi Alessio, lei dice dovremmo mettere, se capisco bene, un limite temporale di verifica alla condizione reddituale dei coniugi alla separazione, per impedire che a distanza di tempo ci siano nuove pretese sul mantenimento. Questo l'ho sintetizzato un po' così, il pensiero di Alessio. Sentiamo Massimo da Bologna, prego Massimo. Quello che volevo dire io, innanzitutto grazie per farmi intervenire, il fatto che l'unica lobby che ha vinto nel varo di questa legge è come sempre la lobby degli avvocati, perché non capisco cosa ci voglia per fare una riforma di modello anglosassone dove stabilita una separazione consensuale davanti al giudice, passato un determinato lasso di tempo, il divorzio non si possa semplicemente ratificare agli stessi patti della separazione con una firma davanti a un ufficiale d'anagrafe senza bisogno di tornare dal giudice e pagare. No, chiarissimo, anche lei come Giovanni dice gli avvocati si sono autotutelati. Sentiamo ancora Gianluca da Napoli. Gianluca. Sì, salve signor Giannino, buonasera ai suoi ospiti. Buonasera. Volevo dire, per me il vero problema non è l'accorciare i tempi o diminuirli, anche se questo aiuta, ma soprattutto sappiamo bene che in sede di divorzio aumenta il contenzioso e soprattutto si inaspiscono gli animi, e quindi oggi come oggi la donna è favorita, perché l'affidamento dei figli viene affidato il 90% delle volte alla donna. La donna ha la possibilità di avere l'assegno di mantenimento anche se entrambi i coniugi non lavorano. Allora, io penso che bisogna ristabilire gli stessi diritti, gli stessi doveri nel rapporto uomo-donna. Allora Gianluca, io posso dirti che ci sono anche molti sms che sollevano questo tema, molti sms di padri separati che protestano contro la giurisprudenza accumulata, il cui indirizzo viene da loro classificato, come hai detto tu, come iniquamente a favore del cosiddetto ex sesso debole. E questa è una cosa che noi verifichiamo in Radio 24 tutte le volte che tocchiamo questo tema, a dire la verità. Allora, qui ci sono obiezioni di ordine diverso, avvocato Gassani. Vediamo di rispondere innanzitutto a chi dice che vi siete tutelati comunque anche nella nuova riforma come avvocati, è vero? No, non è affatto vero, anche perché in effetti le dichiarazioni che io sto facendo stasera sono sovrapponibili alle battaglie che ha fatto la mia associazione per il divorzio breve, insomma, con la Lega Italiana per il divorzio breve e tantissimi altri personaggi, con raccolte di firme, non è vero. Cioè questo modo di intendere l'avvocatura come un'avvocatura che tende a spaccare la famiglia a tutti i costi, è proprio un modo tipicamente italiano di affrontare i problemi. Gli avvocati matrimonialisti non si occupano solo di separazione e divorzio, che sono il 5% del loro lavoro, si occupano soprattutto delle questioni patrimoniali, delle successioni, quindi della costruzione dei rapporti, dei legami, delle adozioni internazionali. Quindi direi che non bisogna dire queste cose, perché anzi stiamo lottando per il tribunale per la famiglia, stiamo lottando per un affidamento condiviso vero. E stiamo lottando perché appunto l'assegno di mobile non sia una rendita parassitaria. Ok, cioè, è chiaro che non mi aspettavo. Mi pare, ma non faccio una difesa corporativa. Sì, no, insomma, magari le dichiarazioni stasera spazzano via ogni dubbio. Che ne dice di una disciplina temporale della revisione e della verifica dei titoli per gli assegni di mantenimento? Perché moltissimi casi che vengono segnalati, uno dei coniugi dicono: beh, insomma, non è possibile che a distanza di tanti anni io debba fare ancora di più, eccetera, eccetera. Ma guardi, io ritengo che già la giurisprudenza, i magistrati abbiano già deciso più o meno che cosa significhi assegno divorzile. Negli ultimi 30 anni siamo passati da un'attribuzione del 60% degli assegni divorzili alle mogli, perché quasi sempre sono loro che lo ricevono, al 20%. Quindi voglio dire, c'è stata una riduzione drastica, proprio enorme, del riconoscimento di questo titolo, perché si ritiene che l'assegno divorzile soprattutto debba essere proprio assolutamente residuale, eccezionale, appunto come diceva un radioascoltatore, se hai una donna di 60 anni che ha dedicato la propria vita ai figli, al marito, è giusto che continui a vivere dignitosamente, ma riconoscere un assegno divorzile dopo 6 mesi di matrimonio a una donna, a un uomo, un marito, a una moglie, semplicemente per lo status di marito o moglie, è vergognoso, è roba da inaccettabile. E quindi da questo punto di vista mi pare che però i magistrati e gli avvocati siano arrivati molto prima. Quindi io credo che in futuro gli assegni divorzili, salvo i casi eccezionali dove il principio di solidarietà deve prevalere, saranno sempre più residuali. Tra l'altro c'è anche da dire che ultimamente molti uomini chiedono e ottengono l'assegno divorzile. Ma questo è un altro segno del fatto che la giurisprudenza pro donne, per così dire, che molti uomini lamentano ai nostri microfoni, è in via di superamento anch'essa attraverso la giurisprudenza? Secondo me sì, perché credo che fondamentalmente anche i giudici donna si siano resi conto che c'è un dramma sociale che è quello dei pari separati, uomini in ginocchio senza speranza. Esatto, e sono quelli che c'è poco da scherzare, perché quando vedi e sai che ci sono 800.000 uomini ormai senza più via d'uscita, qui diventa una tragedia nazionale, molti fanno anche poi gesti estremi. Allora io ringrazio l'avvocato Gassani, vedremo nel tempo l'attuazione di questa verifica di questa riforma, che è importante, dal 70 è la prima volta. Continuate con la 24, appuntamento come a domani.